da un po'. Come parte da noi va molto l'Irlanda di lana che si intreccia con fumi di birra, non lo so. Non gli crederò, non fanno nebbia abbastanza. Che il tuo letto è in una piscina, se ti svegli in nero tuffati e prova a nuotare un po'. Ecco come ridere due giorni di fila in una sensazione. Si incontrano dovunque.